colori dell'anima. Buonasera a tutti, sono le 21.04, abbiamo avuto un piccolo problema alla regia e quindi abbiamo iniziato con 4 minuti di ritardo rispetto al solito. Buon anno a tutti, perché è la prima trasmissione del 2015 che facciamo. Angelo, Carla. Ciao, ciao. Ciao a tutti, buon anno. Siamo ancora in tempo, no? Sì. E poi in fondo Cecilia, 4 minuti, dai. No, 4 minuti sono niente. Soprattutto quando non funziona un emerito. Beep. A noi piace Radio Alma per gli imprevisti che ci regala ogni puntata. Quindi... beh sì, possiamo ancora farci gli auguri per il nuovo anno, siamo tornati felicemente dopo le vacanze, abbiamo ripreso da quasi 4 settimane, che ormai sembrano un'eternità più o meno, non so che sensazione avete voi, ma io mi sento stanca come se... Anche io, la stessa cosa. Come se non avessimo mai avuto un break natalizio. Non importa, risoluzioni per il nuovo anno ne avete fatte? Io... in generale, chiedo. Le risoluzioni in che senso? Buoni propositi. Ah, buoni propositi. E a questo appunto un salutino a Maggie, appunto su una nostra amica che è la donna dei buoni propositi, quindi è una ragazza americana e come... diciamolo che è americana. È americana e lei, se ti incontra il 1° gennaio o comunque anche fino al 15, ti chiederà quali sono i tuoi propositi per il nuovo anno. E così sarà un'americanata, però è vero. Maggie, ciao! Un bacio a Maggie. Ciao Maggie, e anche alla sua piccola bambina che si chiama... come si chiama? Un momento di silenzio. Claire Josephine. Bene. Allora, quindi grazie a tutti quelli che sono in ascolto, un bacio a quelli che non conosciamo, quelli che si trovano per caso in macchina tornando a casa per andare a cenare, quelli che sono appena usciti, quelli che hanno appena finito di lavorare, quelli che sono a lavoro, buonasera a tutti e ricordiamo forse l'appuntamento monosettimanale qui a Radio Alma con i colori dell'anima, che è Cecilia? Ogni lunedì dalle 21 alle 22, ci sono 4 team dei colori dell'anima che si alternano. Noi siamo l'ultimo lunedì del mese e siamo sempre in onda, quindi con i colori dell'anima il lunedì sera. Voi non potete vedere perché non abbiamo ancora uno schermo TV che permette di trasmettere la webcam. Meno male che perché non si può vedere Angelo che fa dei gesti consulti verso la console. Bevendo vino in una bottiglia di acqua che... Ah, je sais pas, alcoolique moi, je sais rien moi. Ah, bah, non, pas du tout. Jamais. C'est du pipi, hein. Vino bianco. Comunque se volete entrare in contatto con noi potete farlo tramite la nostra pagina Facebook. Su cui io non compaio, ma mi piace. Comparirai, prima o poi comparirai. Io sono Giampaolo. Magica bula, pidibibula. Sui pedido pedibo. Comunque la pagina Facebook è Angelo e Carla On Air. Altrimenti potete entrare in contatto con noi telefonandoci allo 02 345 26 56. Oppure per chi chiama da fuori il Belgio è 0032 2345 26 56. Hanno fatto la valletta per questa sera. Bene, bene. E ti dovrebbero vedere i nostri radioascoltatori per una vera valletta. La valletta va vista. Mi sono messa in tiro apposta, mi sono messa sbrilluccicosa. Paillette, voi non potete vedere le paillette di Cecilia. Io ho gli occhiali da sole proprio. Senti, ma che ne dite magari se introduciamo un po' l'argomento di questa serata? Che ve ne pare? Va benissimo, io posso solo dire di che cosa parliamo, ma il titolo della serata non lo pronuncio per rispetto a... Dai, vogliamo un accento esterofilo. Un accento esterofilo, aspetta perché me lo devo rileggere, mica mi ricordo come si intende. Io sono pessima. Comunque no, questa sera dedichiamo la puntata a Pino Daniele. Adesso mi sta scrivendo Carla e non mi scrive la penna, quindi allora la puntata di oggi, citando una delle canzoni che mi stanno più a cuore, abbiamo intitolato questa puntata Sul può parlare. è una delle bellissime canzoni di un autore partenopeo che purtroppo ci ha lasciato 20 giorni fa, 21 giorni fa, che è Pino Daniele. Ed è, questa è una canzone che è stata poi anche reinterpretata da Fiorella Mannoia. E parleremo, un'ora non basterebbe, ma cercheremo di affrontare un po' le varie fasi di questo meraviglioso artista che ci è particolarmente vicino, a me d'Angelo, passando un po' per le sue fasi musicali, dal primo album Terra Mia, ed Angelo ci farà sentire un primo brano che porta il titolo della nostra trasmissione. E dopo Solo può parlare, nella versione di Pino Daniele, che ne è l'autore, una piccola introduzione. Perché proprio parlare di Pino Daniele stasera? Ovviamente, è inutile dirlo che la morte a volte ti fa riflettere un pochettino e ti fa un pochettino fare il punto di quali sono le persone che ti hanno toccato e perché sono contate per te, ti restano, non ti restano, se la morte non ti tocca forse ti rendi conto che quella persona magari più di tanto non ti ha segnato. E penso che in questo caso quella di Pino Daniele ci ha comunque toccato sia Michelangelo e tantissimi altri artisti che ci sono vicino. Ma questa puntata però vuole essere una puntata felice, una puntata di ricordo e perché no, di trasmettere magari a persone come Cecilia Esterofila, esiste questa parola? Non lo so. Nordica. Sì, esterofila, sì. Nordica. Credo che nordica, sì. Nordica, sì, di dire guarda, senti questi pezzi, magari ti possono piacere. È bello sapere anche magari che impressioni può dare un brano del genere a qualcuno che magari non parla il napoletano. O magari Cecilia ha imparato stanotte? No, assolutamente no, per cui credo che già il titolo della nostra trasmissione di oggi l'ho dovuto cercare praticamente su internet, tanto per avere un'idea di che cosa parlavamo. Però personalmente devo dire che, appunto, essendo io nordica, o quantomeno più nordica di voi, ho conosciuto forse poi Pino Daniele giusto quando alla radio veniva passato, le grandi hit che erano, insomma, non mi sono persa probabilmente tutto lo storico, no, del come è diventato poi il nome che tutti in Italia conoscono. Quindi. Ma tu lo sai perché poi i napoletani lo amano? No. Vabbè, a parte perché era napoletano e cantava in napoletano, no. Vabbè, mica tu da metà romana ami tutti i cantautori romani. No. Allora, dimentichi sempre che io sono intanto nata a Milano, quindi sono un caso umano, no? Caso umano. Sono un caso umano, cioè sono di nulla e di nessun luogo in particolare. Ma i romani amano tutti i cantautori romani? Non credo. Non credi? Allora, il fatto è che oltre a parlare di Napoli, penso che il... C'è Angelo che canta, che ci fa Angelo da sotto. Sta cantando Stornelli Romani. Stornelli Romani. Proprio non sei in tema. Per Angelo, farmi stasera. Sentire a casa, giusto per non farmi sentire troppo. La particolarità di Pino Daniele penso sia stata e sia quella di mettere insieme il cantautorato di quegli anni, perché Pino Daniele è nato nel 55 a Napoli e è uscito fuori, quindi ha inciso i primi album alla fine degli anni 70, e la sua particolarità è quella di aver sì detto delle cose come tutti i cantautori di quel periodo, De André eccetera, ma l'abbia fatto non mettendo assolutamente in seconda linea la musica, anzi, uno dei suoi primi album infatti si chiamava Nero a metà, perché per la sua doppia identità lui si diceva in parte, diciamo, attaccato a quelle che erano le tradizioni africane, americane, quindi questi ritmi tribali africani, il jazz americano, e quindi lui dice nero a metà, quindi appartenente ad una cultura musicale molto più ampia di quella partenopea, quindi sicuramente la Scala napoletana, tutto quello che apparteneva alla Damorriata eccetera eccetera, ma in più quindi l'Africa, l'America, e tutto questo attraversa la musica di Pino Daniele durante 45 anni. E siamo di nuovo qui dopo un brano che forse avete poco ascoltato di questo album Terra Mia. Io la prima volta che lo ascoltavo Quindi diciamo che questa sera ascolteremo brani più conosciuti di Pino Daniele e qualche lato B, come forse questo. E forse ci puoi dire qualche parola su questo brano, Angelo, alla regia che l'ha appena messo. Angelo, ti va di commentare? Come ho già detto, è un brano, come leggo da sopra il disco, è la dodicesima traccia dell'album Terra Mia, uscito nel 1977. Per chi non conosce il dialetto, ovviamente, come Sicilia, parla di questa situazione dei lavoratori. Io la trovo molto attuale questo brano, perché lui dice che sta lavorando e pensa che lavora troppo e magari se va in paradiso magari è meglio. Poi va in paradiso e dice Madonna, pure il Signore qua ci fa lavorare, forse era meglio che rimanevamo giù e lavoravamo da vivi. Questo è un po' il succo. Ma riprendiamo la storia degli anni 70 di Pino Daniele. Nel 1976, da bassista, quindi non chitarrista, suona nei Napoli Centrale, che è un gruppo storico con James Senese, ed è un po' il gruppo col quale, tra virgolette, esce sul campo napoletano, per poi più tardi appunto produrre quello che è il primo album Terra Mia, e un altro brano molto conosciuto dello stesso album è Tazzulelle Caffè, che sicuramente Cecilia conoscerà, portata anche al successo da Renzo Arbore. Tazzulelle Caffè? No? Probabilmente l'ho sentita, ma il mio cervello non l'ha registrata. Abbiamo dei problemi oggi. Quindi i musicisti con i quali collaborava, quindi veramente da vicino, erano Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e ovviamente il già citato James Senese. E con questo quintetto nell'81 hanno fatto un mega concerto a Piazza del Plebiscito, dove c'è stata veramente un concerto enorme che ha portato veramente per la prima volta Napoli a veramente mostrare un grosso interesse verso Pino Daniele, che poi più tardi tra l'altro collaborerà, sai, Cecilia, con Wayne Shorter, che è il sassofonista dei Weather Report, per esempio, ad aprire un concerto di Carlos Santana e Bob Dylan addirittura. Cecilia proprio vedo che fa no, mi ha tolto le parole di bocca, non avrei saputo dirlo meglio, veramente. Addirittura, se non ricordo male, ha aperto un concerto di Bob Marley, quindi insomma mica male. E poi magari ci farebbe piacere ascoltare un altro brano. Che ne dici, Angelo, alla regia? Infatti è proprio che dopo quel live al San Paolo, che sempre la casa discografica che lo produceva, che era la EMI a quell'epoca, nel 94 fece uscire un disco che si chiamava Live Show Live, ed ecco che ci ascoltiamo il primo brano di questo magnifico CD, che invito tutti ad acquistare su iTunes, oppure adesso ritornano di moda i vinili, c'è anche il vinile di questo bellissimo album, e noi ci ascoltiamo Chille no buono guaglione. I colori dell'anima. Eccoci ritornati dopo aver sentito la canzone dal titolo che non ripronuncerò. Dai, provaci, Cecilia. Chille no buono guaglione. Wow, ma hai capito qualcosa di questo brano, Cecilia? Allora, credo che il titolo significhi quello è un bravo ragazzo. Carla, glielo spieghiamo che cosa significa, che cosa dice un po' questo brano. Però, concisamente, per andare avanti. Mi sono pure concentrata, ma sarò sincera, non ho capito assolutamente niente. Ma ti sei concentrata veramente? Sì, mi sono concentrata. Facendo foto e mettendole... No, facendo foto e mandandole a mio marito. La nostra fotografa in studio, non le ho ancora Cecilia. Rese pubbliche, perché devo dire che... non so se possono essere rese pubbliche. Fanno un po' cagare, Cecilia, lo possiamo dire. Nonostante il mio telefono sistemi anche un po' i volti e uniformi il colore della pelle. Allora, la prossima volta facciamo delle finte foto a casa, le portiamo secondo qua, me sì. Ci mettiamo le cuffie a casa la mattina, non a questa fase di distruzione di fine giornata, e le pubblicheremo su Facebook. Va bene. Ma insomma, Chille no buono guaglione e vuoi essere una signora, che sarà mai? Lesson number one. Lesson number one. È un buon uomo, non vuol dire un bravo ragazzo. E sì, mi sì, chiamerò sì, Teresa, scenderò a far la spesa. Ma vai, metti da che spill. Mi chiamerò Teresa, scenderò a far la spesa. Ma faccio crescere i capilli e mi metti da che spill. Inviterò gli amici a casa. Diciamo che alle donne sono permesse molte più cose. Lui dice, essendo questo ragazzo, voleva essere una signora, voleva essere... Giulia ci guarda proprio con l'aria. È un bravo ragazzo, non lo giudicate. Quello semplicemente, se fosse una donna, come lui vorrebbe essere, gli sarebbero consentite molte più cose. Tipo, se ti metti a gridare in mezzo alla strada, se ti guardi, ti fai bella, eccetera, inviti la gente a casa tua per una cena. Cioè, se sei una donna non ti dicono niente, se sei un uomo e fai cose del genere ti guardano male. Perché? Però Se sei una donna pensano che sei isterica e quindi rientra nella normalità. Chi lei non buono guaglione, che peccato che non può ricchiù. Hai capito questo? Sì. Credo che l'abbiano capito tutti. Comunque, fondamentalmente, almeno a me, il messaggio che mi arriva è che verso le donne c'è molta più tolleranza verso appunto l'istrionicismo, l'istrionicità, la pazzia, così il colpo di. Di dare un po', di iniziare un po' a gridare, di essere eccentriche, di essere un po' permalose, voler essere al centro dell'attenzione, fare delle cose. E questo ragazzo voleva essere così. E tutto qua. E non c'è niente di male. A me mi ha sorpreso leggere i tuoi fogli di Wikipedia. Dice. Di chi era figlio? E io quello non lo sapevo, che era figlio veniva da una famiglia dove il padre era un portuale. E infatti nelle sue canzoni nella seconda pagina girando la questo pagina. L'ho letto anch'io, perché all'inizio di Wikipedia, proprio l'inizio della biografia. Nato nel quartiere Porto di Napoli. No, ma la cosa bella primogenito di sei figli. Sì, no, e la cosa bella è che nelle sue canzoni ci sono sempre due elementi fondamentali, sempre, in qualunque canzone, c'è sempre il vento e il mare. E infatti quello che andiamo ad ascoltare adesso lo estrapoliamo dal 1979, dal suo secondo album che porta il suo nome, Pino Daniele, e si intitola appunto Vient. Bentornati, sono... Le 21:33, scusate, io questa sera mi sento di partecipare in questo modo molto veramente vallettistico, in cui comunico informazioni pratiche e do informazioni orarie, perché mi sono concentrata anche in questo brano che abbiamo sentito, che devo dire mi è piaciuto molto, ma ho capito solo una parola, vient. Pronunciato bene, vient. Vient, è l'unica cosa che ho capito. Quindi facciamo progressi pian pianino, entro la fine della puntata avrò capito qualche cosa di Napoletano. Effettivamente, come diceva Angelo, è questo vient, è una delle veramente parole ricorrenti. Se prendiamo 50% delle canzoni di Pino Daniele, c'è veramente il vento, il mare e poi dei personaggi che descrive del suo quartiere, evidentemente una persona anziana che è sola, che non sa con chi parlare, che è così in questa fase in cui aspetta la morte, questo personaggio che è un buon uaglio. Questa prostituta di Guan Chiov, è tutta una serie di personaggi, un po' un pittore attraverso la musica e le parole, ma mai con compassione o con tristezza, con molto realismo, oserei dire. Descrive con parole, ecco, non c'è mai, trovo che non sia mai compassionevole neanche con le persone più sofferenti, appunto come queste tre persone che ho appena citato. Ma cerchiamo piano piano di avanzare, perché gli album e la carriera di Pino Daniele sono durati 40 anni e quindi ci ritroviamo nel 1980 con un altro album, Nero a metà, quello che citavo prima e che appunto lo caratterizza per questa sua identità un po' non divisa in due, più di due, ma in ogni caso questo suo lato tribale americano, jazzistico, blues, rock, e tra l'altro dirà poi l'anno scorso che è stato l'album che per lui è contato di più, che in ogni caso ha segnato la sua carriera, ed è per questo che poi nel 2014 lo riproporrà con una versione diciamo limitato, comunque lo riproporrà insieme ad anche un tour che inizierà, se non erro, addirittura all'Arena di Verona, e dove riproporrà gli stessi brani con la stessa band. Gli album sono tanti, le canzoni da ascoltare sono tante, sono già le 21:35. Noi ascoltiamo da Nero a metà del 1980 la seconda traccia, Musica è tutto quel che ho, con la musica posso dirti anche no, quindi il potere della musica, lo dirà poi tantissime volte nelle interviste, perché ha avuto varie relazioni che sono terminate. Pino Daniele dice: in ogni momento difficile, sia di salute, perché poi c'è stato un periodo in cui ha avuto un problema di salute, si è un po' fermato, ha detto: quello che mi ha dato forza sempre è stata la mia chitarra, la musica e la forza che dà di poter dire no. Quindi con la musica ci si può sentire più forti, ed è almeno è il messaggio che a me è arrivato sentendo questo brano. Cecilia? Allora, questo partiamo da... Questo era italiano. Questo era in italiano, è vero, è vero. Quindi questo l'ho più o meno, allora, questo l'ho seguito, quantomeno possiamo dire così, quello che dici tu è quello che un po' è arrivato anche a me, no? Come poi alla copiona, fine... Sì, hai visto? Ho capito, perché poi dopo entrava nei dettagli in certi dettagli che ci vorrebbe. Vabbè, non c'è ci vorrebbe una seduta in cui uno si legge il testo con calma. Nel 1982, anno a me molto caro, anche nostra data di nascita. Nascita. Tutti sanno, tutti fanno i calcoli. Quanti anni hanno queste due? Vecchie. Uscita dell'album Bella Ambriana. Vecchie, ma che si tengono bene. Conservate. Uscita dell'album Bella Ambriana, dal quale sentiremo l'omonimo brano, la traccia numero 3, Bella Ambriana. E non potete indovinare chi ha fatto una cover di questo brano, che non era la Bella Ambriana, ma Anna Re. Niente poco di meno che Anna Tatangelo. Sono curiosissima di sentire la sua versione appena torno a casa. La cerco e la mandiamo. No, dai. Ma la prossima, Cecilia. La prossima. Dall'album Musicante, prendiamo tempo perché la regia non è pronta. Nel 1984, un anno dopo che io sono nato. Ecco, il giovinetto. Almeno sappiamo anche in che anno è nato Angelo. Ecco. Mi pare giusto. Alla traccia numero 10 troveremo il brano Lazzari. Com'era? Oddio, l'ho già dimenticato. Guarda il sorriso. Quindi Lazzari Felici. Colori dell'anima. Siamo insieme? No. C'è Angelo che fa sempre dei segni che sono misteriosi alla regia. Bentornati. Voi vi siete persi dei momenti di disturbo musicali che Angelo ci ha regalato, quindi purtroppo la mia lezione numero 3 era di Gigi Napoletano. D'Alessio che cantava Anna Re. Avevo intuito, ma noi volevamo la Tatangelo. Questo era il nostro sogno, di sentire la Tatangelo. La Tatangelo viene solo se la cioè. Comunque io purtroppo non ho potuto concentrarmi sul testo e quindi la mia lezione numero 3 è andata bene. La cover era Anna Verrà, non era Anna Re. C'era un'Anna di mezzo, però un'Anna più tardiva che scriverà molto più tardi. Ma io nel mio favoloso Wikipedia ho trovato Anna Verrà insieme con Gigi D'Alessio. Ecco, altre interferenze, io non so da dove vengono. Non lo so, guarda, questa sera è disturbata Radio Alma. Ma io sapevo che aveva scritto delle colonne sonore per i film di Massimo Troisi, quali Ricomincio da tre, Le vie del Signore sono finite, pensavo fosse Amore invece era un Calesse, eccetera. Ma non sapevo che avesse scritto anche la colonna sonora per il film di Vincenzo Salemme e per O Popo Moz, che era un film di animazione di Enzo Dalò del 2003. Ecco, questa mi era nuova. E come questa ha musicato tantissimi altri film, un film di Alessandro Siani con non so se l'avete visto, credo sia uscito l'anno scorso, a Natale l'anno scorso, Il principe abusivo di Alessandro Siani. E insomma, si è dilettato in vari campi. Proprio su questo punto, invece di passare quello che tu avevi detto, facciamo passare Pino che canta con Massimo Troisi. Perché no? Why not? Ve lo diciamo dopo il titolo di Angelo, questo brano. E c'è un video carinissimo su YouTube dove lui fa, dove Pino Daniele fa sentire Massimo Troisi quando gliela fa sentire Massimo Troisi è estasiatissimo, dice spegni sta telecamera che me la devi far sentire con calma, è troppo bella, ma no. E invece un altro video che di sempre su YouTube che potrete trovare facilmente è quello che circolava tantissimo i giorni successivi alla morte di Pino Daniele, ossia quello di un concerto quando lui aveva ancora i capelloni, quindi stiamo parlando ancora degli anni 80, e c'è qualcuno che gli dice dalla folla impara a parlare, no perché non era napoletano, tipo impara a parlare, parla italiano, qualcosa del genere, qualcosa che avrei potuto urlare io. E, però era il tono, insomma, non era molto simpatico. E lui con molta nonchalance, non offeso, così proprio tipo: come? Non ho sentito? E quello glielo ridice: fa, e vabbè, io so suonare, che seconda, che già fa? È come per dire, appunto, riprendendo le parole di musica: musica è tutto, musica è tutto quel che ho, e posso dire pure no, posso dire in realtà. Come hanno fatto? Ma c'è stato anche un momento in cui in un'intervista lui dice che faceva della musica per vendere. Ti ricordi quella? Come no? Spiega questo mentre chiama? Io Red preparo Ronnie? Con Red Ronnie, ed è tutti quelli che amano Pino Daniele si ricorderanno l'album come un gelato all'equatore. Beh, mentre Carla vi spiega qualche cosa, io preparo questo piccolo estratto. Quindi sempre nei giorni successivi alla morte di Pino Daniele ci sono apparsi video di ogni sorta, roba ripescata, roba mai vista, e una di queste era un'intervista abbastanza recente, credo dell'anno scorso o forse 2 anni fa, di Red Ronnie, ve lo ricordate, no? Quel signore conoscitore di musica, critico musicale, con i capelli rossi corti a spazzolino, che animava, presentava un sacco di trasmissioni con concerti dal vivo, e esperto di musica, e riesce ad avere un'intervista da Pino Daniele che gli dice aspetta, però una cosa corta, perché quindi si prendono tipo una decina di minuti massimo e chiacchierano un pochettino e dicono beh, io preferisco, sono arrivata a un punto in cui non me ne frega più della hit, cioè io per un lunghissimo periodo, per 20 anni, avevo un sacco di cose da dire, fondamentalmente sono uno che aveva delle cose da dire e per questo ha fatto musica, oltre poi alla grande passione che è partita dal basso, poi è arrivata alla chitarra, e poi a un certo punto sono rimasto incastrato in una logica di trovare la hit, devo fare quel pezzo che spacca, e allora là mi viene in mente questo brano veramente, mi voglio esprimere, lascio decidere voi, in ogni caso rispetto quale che ti viene in mente? Quello che passerai adesso. E ci sono state delle hit carine anche, però diciamo che si vede che il registro è cambiato, e poi negli ultimi anni si è detto ma che me ne fotte, e quindi c'è stato un cambiamento totale di registro, faccio la musica che piace a me. No, ma infatti anche questa che ascolteremo è comunque, ne volevo scegliere un'altra, però forse quella lì è l'avrei scelta perché è una forse la più bella di quest'album, però questa è andata per tutte le radio quando è uscita. Era un gelato all'equatore, io senza di te sono neve al sole, sono neve al sole, per circa 2 minuti lo stesso accordo. Posso dire che questa la conoscevo anch'io? Brava perché Cecilia. Perché nella mia adolescenza è riuscito a fare anche a me. Perché nella mia adolescenza sentivo dei programmi alla radio la sera, tutte canzoni d'amore, e questa la passavano sempre. Quindi ha fatto una buona hit alla fine. Ha fatto una buona hit che passava per le adolescenti come me che la sera ascoltavano. Alla fine ha sempre fatto d'amore. Quello che ha voluto. Esatto. E Angelo, che dici? I minuti purtroppo corrono velocemente, sono le 21:55. Io direi di dare il colore alla serata e di lasciare l'ultimo brano che peschiamo dall'album Che Dio ti benedica, e che porta forse il suo nome, e lo diciamo dopo. Quale colore diamo a questa puntata? Cecilia dice, che ne so io? Lo devo dare io? Vai. Me è venuto in mente sentendo la musica, perché le parole sappiamo, abbiamo capito tutti quanti. Ma come? C'è il gelato all'equatore, Cecilia, dai. Il gelato all'equatore, sì, ma stiamo parlando, vabbè. Comunque, a me è venuto in mente, sai quei bei color tipo cioccolato con una striatura di blu elettrico? Questo è il colore che mi viene in mente. Il blu bisogna metterlo perché è Napoli. Però Rosanna, dovete sapere che la nostra chef, la nostra caporadio, ci dice sempre: ma com'è che sto blu è il colore di tutte le puntate? Basta il blu. Quindi perché il blu non va mai, non passa mai di moda in fondo, no? Vai. Quindi un marrone però come la terra alla quale appartiene. Esatto. E poi ci però quel marrone una...